Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, mi scuso per la scarsa qualità della voce, chiaro che oggi ci occuperemo anche e soprattutto di legge di stabilità, di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'Economia, ma anche delle dichiarazioni che sono arrivate dall'Europa, che non devo dire non sono in questo momento diciamo così entusiasmanti, visto che, come abbiamo spiegato in molte occasioni, questa manovra finanziaria si basa in maniera non rilevante nel senso dell'ammontare complessivo, ma rilevante perché l'ultimo miglio che serve, ossia sono i soldi che ci deve concedere l'Europa come maggiore flessibilità, e non è poca cosa, perché, ripeto, altrimenti mancano le coperture. Dicevo che Dombrovskis, che è chiaramente il vicepresidente della Commissione europea, a chi gli chiedeva cosa pensava della legge di stabilità italiana e soprattutto per quello che riguarda anche l'eliminazione della tassa sulla prima casa, ha detto: normalmente la Commissione consiglia agli Stati di spostare il peso della tassazione dal lavoro ai consumi, l'azione del governo italiano non va in questa direzione, quindi dovremmo discutere con loro le ragioni e le potenziali implicazioni. Ora, non c'è nulla di nuovo, nel senso che l'Europa ha sempre detto che avrebbe preferito, come indicazione l'ha sempre data, spostare la tassazione dall'IRPEF, IRES a altre forme di tassazione, tra cui quella sulla casa. E quindi c'era già stato uno scambio di vedute, chiamiamolo così, tra governo italiano e Commissione europea. Vedremo, e ne parliamo praticamente in apertura, così come inizieremo anche a toccare i temi che verranno domani affrontati nella 30ª edizione del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria Capri. Saranno presenti sia il ministro dell'economia Padoan che altri esponenti del governo. Ne parleremo con il presidente dei giovani imprenditori. Il tema riguarda il patrimonio dell'Italia e la necessità di rimettere assieme il nord e il sud del paese, che in questo momento stanno viaggiando in maniera abbastanza disunita, soprattutto dopo la crisi. Parleremo anche di chi si quota in borsa, e mi riferisco a H-Farm. È previsto entro 2 settimane il collocamento delle azioni di H-Farm in borsa, e tra l'altro il listino si quoterà sull'AIM, che è il listino per le piccole e medie imprese, un'offerta che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. Cos'è H-Farm? È una piattaforma digitale nata con l'obiettivo di aiutare i giovani imprenditori nel lancio di iniziative, quindi è una piattaforma per le start-up. Particolarmente interessante il fatto che si quoti in borsa una piattaforma per le start-up. Di solito vediamo che anche gruppi che hanno più storia hanno difficoltà delle volte a sbarcare in borsa. Ecco perché il caso è molto interessante. È nata nel 2005, già ha sede a Roncade, in provincia di Treviso, 550 persone che lavorano in questo campus, con 17 milioni di euro di investimenti effettuati in 10 anni e 140 aziende finora finanziate. Ne parleremo con il fondatore. H, cioè la H, sta per human, quindi la fattoria, una fattoria umana, se vogliamo tradurlo, diciamo, dall'inglese in quel modo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. E visto che parlavamo di chi debutterà in borsa, parliamo di borsa. Più 1,60% in questo momento Milano, più 1,50 Parigi, più 1,40 Francoforte, più 1,20 Londra, più 0,50 l'America. Oggi in recupero ST Microelectronics, più 4,70 Exor, la controllante del gruppo Fiat Chrysler, più 4,12 Telecom Italia, più 3% come Atlantia e il Banco Popolare, ma anche Prismian guadagna il 3%. Il 2,80 lo guadagna Finmeccanica, il 2,60 Fiat Chrysler e Unipol, il 2,20% è il rialzo sia di Mediaset che della Popolare di Milano e di A2A. Negativo Ferragamo invece del 3,76% continua a essere sotto pressione nel settore del lusso dopo il dato che abbiamo più volte ricordato di due giorni fa delle importazioni cinesi crollate del 20%. È chiaro che il mercato va a ragionare sui titoli che fanno parte del fatturato proprio in Cina. Ferragamo meno 3,70, dicevo, Moncler meno 1,80, Tod's meno 0,40 come Yux Net-a-Porter. Altre notizie in breve di questa giornata economico-finanziaria, è interessante quanto scrive oggi il Financial Times in un'inchiesta che sostanzialmente smonta le indicazioni arrivate dai servizi segreti occidentali sull'impatto dei bombardamenti sulla capacità petrolifera dei terroristi dell'ISIS. Dice infatti il Financial Times che l'ISIS continua a prosperare grazie alla vendita sotto banco di petrolio, almeno 500 milioni di dollari incassati negli ultimi 12 mesi, e i 10.000 raid aerei condotti dalla coalizione a guida statunitense sono stati finora sostanzialmente un flop, perché riescono ancora a produrre appunto i terroristi dell'ISIS nel loro territorio tra i 34 e i 40 mila barili al giorno. Ancora, per quello che riguarda invece l'Europa, allora, passiamo prima un secondo al Brasile e gli Stati Uniti, poi arriviamo all'Europa, perché in Brasile l'agenzia di rating che dà i voti ai debiti dei governi e dei soggetti privati, Fitch, ha tagliato il voto del Brasile portandolo da BBB a BBB-, che è l'ultimo gradino accettabile per quello che si chiama investment grade, quindi per un investimento che viene considerato ancora accettabile, nel senso che poi si passa a livello spazzatura, e sappiamo che molti fondi di investimento hanno come vincolo quello di investire solo in titoli che si chiamano appunto investment grade, che hanno appunto un grado di investimento accettabile, di sicurezza accettabile. Dicevo che l'agenzia di rating ha motivato la decisione con il persistente deterioramento della situazione finanziaria dell'economia brasiliana, mentre l'incertezza politica continuerà a pesare sulla fiducia. Per quest'anno Fitch prevede che l'economia brasiliana vada in recessione del 3%, meno 3% quest'anno e meno 1% nel 2016. Buono invece il dato che arriva dagli Stati Uniti sui sussidi alla disoccupazione. Pensate che sono scesi, altro che al 2007, sono scesi ai minimi da 42 anni a questa parte, cioè le domande settimanali di sussidi sono calate a 225.000 unità, 7.000 in meno, ed è la media mensile è la più bassa dal 1973. Ancora, per quello che riguarda invece l'Europa, oggi il membro austriaco del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, parlando a Varsavia, Ewald Notny, ha detto che la Banca Centrale Europea sta chiaramente mancando l'obiettivo di riportare l'inflazione vicino al 2% con le varie operazioni, in primo luogo il quantitative easing, quindi l'acquisto di debito, lo stampaggio di euro attraverso l'acquisto di titoli di Stato dei vari paesi dell'area euro, fatto per due terzi dalle banche centrali di questi paesi, per un terzo dalla Banca Centrale Europea. Dicevo, il membro austriaco della BCE ha detto stiamo chiaramente mancando l'obiettivo di riportare l'inflazione verso il 2%, è abbastanza ovvio che serve un insieme di ulteriori strumenti per fronteggiare l'andamento dei prezzi. Ricordo che l'ultimo dato a settembre ha visto l'inflazione calare dello 0,1% rispetto all'anno prima a livello europeo. Ancora la vicenda Volkswagen, vi hanno già riferito i nostri GR. Comunque saranno 8 milioni e mezzo le auto diesel dell'Unione Europea che saranno richiamate senza nessun costo per i proprietari, aggiungo io, e ci mancherebbe. E poi ha spiegato Volkswagen che i nuovi motori diesel EA288 non sono stati manipolati. Poi dovrà richiamare 2.400.000 auto da subito in Germania, Perché? Perché questo gliel'ha ordinato l'ente tedesco di omologazione KBA, bocciando la proposta della Volkswagen che voleva che i proprietari portassero di loro spontanea volontà, cioè quando una voglia la portava l'auto. No, è obbligata a richiamare 2.400.000 auto in Germania. E poi c'è la parte, diciamo, dell'inchiesta della magistratura italiana perquisita dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura di Verona, dove c'è la sede della Volkswagen, Volkswagen Group in Italia, un insieme di perquisizioni disposte dalla Procura di Verona che ipotizza il reato di frode in commercio. Indagati sia il presidente del Consiglio di amministrazione della Volkswagen Italia, Luca De Meo, che l'amministratore delegato e direttore generale Massimo Nordio, e poi indagate anche dalla Guardia di Finanza la sede della Lamborghini. La sede della Lamborghini, che è a Sant'Agata Bolognese, dove è previsto tra l'altro un ingente investimento per realizzare il progetto del primo SUV della Lamborghini, che dovrebbe chiamarsi Urus. L'azienda aveva annunciato un investimento di circa 700 milioni di euro e 500 nuovi posti di lavoro. Ancora due notizie in breve. Dopo la rottura tra Confindustria e sindacati, il primo accordo sul modello contrattuale, ne abbiamo parlato, oggi è stato raggiunto un accordo tra le imprese chimiche e i sindacati sul rinnovo del contratto del settore chimico-farmaceutico. Aumento medio per il triennio di 90 euro regime, diviso in tre tranche. Il settore, lo ricordo, il settore della chimica in Italia occupa circa 170.000 persone. Poi c'è la vicenda Fincantieri. Diciamo, il debutto in borsa di Fincantieri non è stato certo un'operazione facile, tutta in salita e anche deludente sull'andamento del titolo. Oggi che cosa è successo? Il titolo è stato sospeso dopo che era crollato del 15% e anche riammesso in contrattazione ha perso il 15% dopo l'allarme sui conti della controllata brasiliana Vard. Ora faccio notare che in questo momento perde un po' meno, il 13,6% a 59 centesimi di euro. Praticamente, secondo quanto risulta, anche se il gruppo ha smentito indiscrezioni di stampa che parlavano di un aumento di capitale necessario fino a 500 milioni di euro, Vard è, anche se è posseduta al 55,6%, entra tutta nel bilancio di Fincantieri, è interamente consolidata. E ci sono difficoltà operative nei cantieri brasiliani del gruppo, un difficile contesto politico-economico brasiliano, abbiamo appena detto di Fitch. E nel primo semestre dell'anno Vard ha pesato per il 27% sui ricavi del gruppo, però ripeto, Fincantieri ha smentito di aver preso una decisione sull'aumento di capitale, non ha smentito l'aumento di capitale, ha smentito che vi sia una decisione sull'aumento di capitale già presa. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Iniziamo la pagina sulla legge di stabilità. Il valore di 1 miliardo in meno rispetto a quanto circolato nei giorni scorsi, 27 miliardi e non 28, in gran parte però finanziati a deficit. Voglio essere subito chiaro, per anni abbiamo detto che il governo italiano doveva andare in Europa a chiedere maggiori margini di flessibilità per far ripartire l'economia. E su questo, a mio avviso, fa bene il governo Renzi a insistere, perché non si può cambiare idea ogni volta. Detto questo, ci sono alcune cose nella legge di stabilità che non, personalmente ci hanno lasciati perplessi. La soglia da 1.000 a 3.000 euro, primo, è il messaggio che si dà al mondo dell'evasione fiscale in questo paese. E il secondo aspetto, ne parlavamo anche ieri, il poco minore, quasi insignificante apporto che arriva da questa manovra dalla cosiddetta spending review, e cioè dalla revisione della spesa. Dovevano essere 10 miliardi, poi 5, e poi scopriamo che in realtà questi 5 miliardi non sono fatti di vera spending review, ma di un taglio lineare del 3% ai ministeri. Comunque andiamo a analizzare la legge di stabilità. Allora, vediamo di capire come funziona questa legge di stabilità. 13 miliardi arriverebbero dall'aumento del rapporto tra deficit e PIL, e quindi, insomma, a deficit. Abbiamo sempre detto che questo deficit, questa ossessione per il deficit al 3% è il motivo per cui ha, non al 3%, ma anche di arrivare poi al deficit pari a zero, è il motivo per cui l'Europa ha beccato la unica area geografica al mondo ha beccato la seconda recessione dopo la crisi del 2007. Per cui non si può adesso criticare se uno dice vabbè, facciamo una manovra a deficit. Il problema è che dalla spending review arrivano solo 5 miliardi, 1 miliardo e 7 verranno reperiti attraverso tagli lineari, 2 miliardi arriveranno dalla voluntary disclosure, quindi dal rientro dei capitali illecitamente portati all'estero. Poi cosa servono questi soldi? 16 miliardi su 27 servono a disinnescare le famose clausole di salvaguardia, cioè se non troviamo questi 16 miliardi scattano in automatico aumenti dell'IVA e delle accise. Questi 16 miliardi ci mettono al riparo solo per il 2016. Nel 2017 si riproporrà il problema, ne serviranno 25 di miliardi. E poi ci sono i soldi per i 5 miliardi per eliminare la TASI e l'IMU sulla prima casa, l'IMU agricola e l'IMU sugli imbollonati. 800 milioni servono per il superammortamento, quello per le imprese, cioè che se spendono 100 euro per un nuovo macchinario possono usare per l'ammortamento 140 euro e spalmarlo poi nei tempi dell'ammortamento previsto, con un vantaggio, nel senso che tu vai a ammortizzare più di quello che è il tuo costo reale. Per i macchinari acquistati dalle imprese tra fine 2015 e tutto il 2016. Poi c'è il taglio dell'IRES spalmato su due anni che vale 4 miliardi, portare l'IRES dal 27,5% al 24%, ma serve via libera dell'Unione Europea, perché per finanziare quello occorre la clausola di flessibilità aggiuntiva per l'emergenza migranti, cioè soldi che l'Italia deve avere per avere gestito l'emergenza migranti, è lo 0,2% del PIL, quindi stiamo parlando più o meno di 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi. Poi la decontribuzione per le assunzioni, quella che è già partita il 1 gennaio, verrà riproposta anche l'anno prossimo, cioè per chi assume anche l'anno prossimo, però sarà dimezzato il valore complessivo, da 8.000 a 4.000 euro, cioè chi assume entro il 31 dicembre ha una decontribuzione per i neoassunti a tempo indeterminato come impresa, come azienda, come società, che vale fino a un massimo di 8.000 euro l'anno per ogni dipendente assunto. L'anno prossimo questa decontribuzione sarà della metà, di 4.000 euro, e si esaurirà completamente nel 2018. Poi ci sono 600 milioni destinati al fondo per la povertà, la cui dotazione sale a 1 miliardo e 400 milioni per aiutare le famiglie con figli a carico che vivono sotto la soglia di povertà, e le altre misure, l'innalzamento da 1.000 a 3.000 euro per la soglia dei pagamenti in contanti, di cui non si capisce l'eventuale gettito, il pagamento del canone RAI in bolletta elettrica, e per gli over, per chi ha più di 63 anni si sta lavorando un accesso agevolato al part time per i due anni che mancano per l'accesso alla pensione. Professor Stefano Manzocchi, direttore del Dipartimento Economia e Finanze dell'Università Luiss di Roma, buonasera. Buonasera. Allora, adesso ascoltiamo anche sia Dobrovolskis che Padoan che Renzi. Mi dia un primo giudizio su questa legge di stabilità, però. Guardi, andrei un po' sul filosofico, ho ascoltato punto per punto il quadro che lei ha fatto. Noi siamo in una fase economica nella quale c'è bisogno di politica fiscale, perché le politiche monetarie sono tutte ormai lasche al massimo della possibilità, e nonostante questo siamo in una fase in cui ci dicono gli organismi internazionali la crescita mondiale è a rischio. Serve la politica fiscale, l'Europa palesemente non ha una politica fiscale comune, né l'avrà certamente il prossimo anno, la devono fare gli Stati europei. Quindi questo è il tentativo con alcune pecche di cui lei ha parlato, adesso lo dirò in un attimo, però è il tentativo che sta facendo, direi, il governo italiano per dare il suo contributo in termini di una politica fiscale espansiva. Questa politica fiscale espansiva come si sta traducendo nel nostro paese? Prendendo atto di una pubblica amministrazione che ancora di fatto non è riformata, perché non lo è, abbiamo una legge delega ma la macchina della pubblica amministrazione ancora non è riformata e che prenderà qualche anno per esserlo, la strada da via maestra è quella di fare una politica fiscale riducendo le tasse. Quindi se noi andiamo a sommare le voci che lei citava prima, di fatto abbiamo che 17 di clausole di salvaguardia più 4-5 miliardi di abbattimento delle imposte sulla casa, significa che 22 miliardi circa di questa manovra, da 27 a quello che è, sono diciamo riduzione o non aumento di imposte. Per essere precisi, 16 servono a non aumentare l'IVA e le accise, esatto, e 5 servono a eliminare l'IMU e la TASI. Perfetto, quindi siamo a 21 su 27, diciamo. Gli altri 3 sappiamo che ballano ancora per via dello 02 per i migranti, diciamo. E quindi questa manovra di fatto è un non aumento barra riduzione di imposta, che in un paese dove la pubblica amministrazione ancora è poco capace di spendere bene e non è riformata nonostante la legge delega, probabilmente è quello che si può fare per cercare di dare uno stimolo a un'economia che ancora che si sta riprendendo, ma che è ancora fiacca, come sappiamo. Allora, concordo con lei, concordo assolutamente con lei sul problema della spending review, ma questo a mio avviso è frutto proprio di questa riforma ancora assolutamente non compiuta agli albori della pubblica amministrazione. Finché la pubblica amministrazione italiana non si basa su criteri di valutazione dei manager, delle strutture e degli interventi, sarà difficile arrivare a una spending review che non sia tagli lineari. Oddio, dentro la spending review, professor Manzocchi, ci sono anche, però io prendo il testo di Cottarelli, lasciato da Cottarelli sul lavoro, noi lo dico perché il sospetto che nel passaggio di consegne si sarebbe perso del tempo, oltre che dell'incisività, lo avemmo sperando di sbagliarci. Fu nostro ospite Joram Gutgeld dicendo no, noi andremo avanti, e l'abbiamo fatto sentire ieri, confermiamo i 10 miliardi di risparmi, che poi sono scesi a 8, adesso sono scesi a 5, e sappiamo che in molti casi si tratta anche di interventi lineari. Oltre a quello che lei diceva, cioè spese, guardate che spending review non vuol dire tagliare la spesa e basta, vuol dire rimodulare, rivedere la spesa. Come spiegavamo ieri, alcune voci possono essere lasciate invariate, altre aumentare e altre essere portate a un meno 30, meno 40%. Questo vuol dire fare un lavoro di precisione e chirurgico, non il taglio lineare. Ma dicevo, oltre a quanto lei ricordava sulla maggiore produttività, il merito nei dirigenti, la licenziabilità dei dirigenti della pubblica amministrazione e quant'altro, ci sono i 32.500 centri d'appalto possibili in questo paese, cioè soggetti giuridici che possono indire una gara d'appalto. Chiaramente poi la stampante, la siringa e quant'altro hanno prezzi diversi dalla Val d'Aosta alla Calabria e via così, anche perché hai 32.500 soggetti che possono indire una gara di fornitura per i cerotti piuttosto che per i televisori, le stampanti o quant'altro. E poi ci sono le 8.000 società partecipate dagli enti locali, 8.000, di cui 3.000 con meno di 6 dipendenti e di cui migliaia senza un bilancio, perché è anche così che funziona il nostro paese. Per cui Manzocchi, lì l'approccio, poi se uno mi dice, adesso ho il metodo della pubblicità e poi volevo sentire anche lei su questo. Chiarisco due cose agli ascoltatori. Uno, abbiamo sempre detto che non bisognava stare, diciamo, suicidarsi con il patto di stabilità ragionieristico, stupido, a trazione tedesca, e adesso che andiamo a cercare maggiore flessibilità non possiamo criticare il governo su questo, secondo me. Allo stesso modo, però, così come si dice, attenzione, non puoi criticare un governo se fa quello che hai sempre chiesto, faccio presente che il governo ha deciso che fosse prioritaria la riforma del Senato piuttosto che la legge sulla riforma della pubblica amministrazione, perché la riforma della Madia è ancora lì da discutere. Sono scelte politiche, uno può essere d'accordo, uno può non essere d'accordo, dire no, la prima cosa era riformare la pubblica amministrazione in questo paese. Meteo, pubblicità e poi il suo commento. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. As a regards taxation, indeed, commissions advise normally. Per quel che riguarda le tasse, solitamente il consiglio della Commissione europea per favorire la crescita economica è quello di alleggerire il carico fiscale sul lavoro, spostandolo su altre voci come i consumi, la proprietà e i capitali. Quella dell'Italia non è un'azione che va in questa direzione. Per questo è necessaria una discussione con le autorità italiane per capire le ragioni di questa politica fiscale e delle sue possibili implicazioni. Vorrei semplicemente ricordare che questa manovra, che porta a un notevole abbattimento delle tasse, abbatte le tasse sulla prima casa, ma abbatte le tasse anche sull'attività delle imprese, quindi non c'è un'alternativa, non è che tassiamo più una cosa e meno di un'altra, abbattiamo le tasse su tutto il campo, diciamo. Per com'è l'Italia oggi? Eliminare la tassazione sulla prima casa, sì, in un paese che ha l'80% di proprietari di casa, significa dire: ragazzi, è finita la fase in cui continuiamo a tassare, ha un valore simbolico, ha un valore evocativo, ha un valore di fiducia. Si scrive legge di stabilità, si pronuncia legge di fiducia. È una valutazione strettamente politica. La ripartenza di quest'anno deve essere incoraggiata e spinta, deve essere implementata. Deve essere sostenuta. L'unico modo per sostenerla, a nostro giudizio, è dare degli shock fiscali. Per come stanno le cose, per quella cifra lì, lo shock fiscale più forte, a nostro avviso, è stato quello dell'IMU Tasi prima casa. Molto semplice, non c'è un fattore di valutazione diversa da quella. Beh, insomma, meno convinto il ministro Padoan, che avete sentito dopo Dombrovskis, che invece è il vicepresidente della Commissione europea, che ha ribadito che per l'Europa la linea da seguire sarebbe la riduzione dell'IRPEF. Renzi dice: no, qui c'è il valore della fiducia, quindi è una scelta politica, e su questo devo dire che non gli si può obiettare nulla, che sia una scelta politica, anche elettorale, aggiungono alcuni, visto che appunto l'88% degli italiani hanno la loro casa. Personalmente abbiamo sempre detto che era meglio ridurre tasse in maniera corposa su IRPEF e IRES, cioè su chi dà lavoro e su chi lavora, anche perché obiettivamente è chiaro che nessuno piace pagare l'IMU, però se avessimo un catasto fatto seriamente, l'IMU sarebbe anche un modo per ridurre alcune disuguaglianze, nel senso, e poi non si capisce perché levarla anche ai castelli, alle case di lusso. Il gettito non è tantissimo, sono circa 90 milioni di euro, però a proposito di simboli, di messaggi, ma perché devi levare un IMU a un immobile che vale milioni di euro e paga di IMU qualche migliaio scarsi di euro all'anno, dai. Però detto ciò, e questo è un fronte, l'altro fronte è sulla spending review e sulla riforma della pubblica amministrazione. Mi scrive un ascoltatore: ma guardi che la riforma DIA c'è, mancano solo i decreti attuativi. Sì, ma guardi che è come dire che io della macchina ho la scocca, ma mi manca il motore e le ruote, perché senza i decreti attuativi non si fa nulla. Comunque, professor Manzocchi, insomma, l'Europa resta nella sua linea che bisognasse ridurre sì le tasse, ma quelle IRPEF e IRES, volevo anche un suo commento sulla riforma della pubblica amministrazione e la spending. Guardi, sull'IMU sono assolutamente d'accordo con la sintesi che ha fatto lei, tra l'altro direi che concordo anche su le diversità di accenti del Presidente del Consiglio e Ministro. Dai, era meno convinto Padoan. Ma guardi che Padoan ha una sua vita, come lei sa, una sua storia precedente dove... Ma l'ha sempre, infatti, ha sempre detto che bisogna abbattere le tasse sul lavoro. Però detto questo, mi sembra assolutamente chiaro quello che il Presidente del Consiglio non ha lasciato intendere, ha detto. No, l'ha detto. Trattasi di scelta politica, va bene. E penso però che effettivamente qui il problema e il segnale più grave che questa vicenda ci lascia è proprio quella della mancata riforma del catasto. Cioè, qualche giorno fa la direttrice dell'Agenzia delle Entrate ha detto: abbiamo perso per l'ennesima volta l'occasione di riformare il catasto. E questo è, anche questo, uno dei segnali di quanto sia difficile riformare la nostra pubblica amministrazione. Perché che esista la legge delega e non ci sia ancora, so che ci sono dei gruppi di lavoro, delle commissioni con la Maria che stanno lavorando, di colleghi illustri, ma che non si sia ancora diciamo a conoscenza di come poi verrà articolata la delega, significa che effettivamente non abbiamo la scocca, abbiamo il disegno della macchina, esatto, abbiamo il progetto, non abbiamo neanche la scocca. Magari ma ci ho detto mm-hmm, la nostra pubblica amministrazione che va ritornata come dire, è la scalata di una montagna, come sappiamo, perché diceva abbiamo dato la priorità alla riforma del Senato, sì, attenzione, lì abbiamo anche il tentativo di riformare per l'ennesima volta il titolo quinto, ad esempio, che si parte dare una ulteriore chance di riforma alla nostra pubblica amministrazione, perché la spesa pubblica, in particolare la sanità delle regioni, che come sappiamo è esplosa negli ultimi 15 anni senza nessun controllo e senza, certo, nessuna possibilità di fare alcuna spending review, mentre abbiamo paradossalmente abbiamo avuto un centralismo con il patto di stabilità interno che ha impedito anche ai comuni, che erano in perfetto equilibrio, di spendere, di poter, certo, investire. Allora, il mio personale parere è che le regioni andrebbero abolite. Vabbè, cosa che non si è fatta e non si farà. Ciò detto, bisogna assolutamente fare quello che lei diceva, cioè, e questo in parte Gutke lo promette, ridurre i centri di spesa, perché solo nella sanità i centri abbiamo, di appalto, sì, i centri di appalto e di gare pubbliche, insomma, nella sanità ne abbiamo soltanto nella sanità credo qualche decina di migliaia, alcuni ospedali pubblici possono farsi la loro gara da soli, sì, e poi dobbiamo anche lavorare per esempio a livello comunale, probabilmente le uniche amministrazioni che hanno davvero un senso con un rapporto con i cittadini, eccetera, per fare in modo che chi governa bene possa investire nel proprio comune e chi fa male, per esempio con 5 o 10 municipalizzate inutili, sia costretto a... Sì, allora ci sono due aspetti, lo dico anche a chi scrive. Intanto, una volta che tu abbatti l'IMU, se hai promesso, levi l'IMU sulla prima casa... siccome Renzi ha detto non si può continuare a levarla un anno, anche per ogni volta che l'hanno rimessa aumentava, prima era l'ICI e via così, vuol dire che tu questa cosa la devi finanziare ogni anno, lo chiarisco a chi scrive, cioè non è che adesso la levi, no, ogni anno dovrai trovare questi 5 miliardi che ti sarebbero arrivati dal gettito, professore, no? Nel senso che non c'è dubbio, per cui questa c'è è una cosa che ti porti per i prossimi anni. Uno, non è un costo, è sempre vero, diciamo, è sempre vero in qualunque riduzione fiscale, ci mancherebbe, non è che vale solo per l'IMU. No, a meno che non si tagli la spesa. A meno che non si tagli la spesa, perché a quel punto se tu riduci l'IMU di 5 miliardi ma tagli la spesa riesci ad andare alla pari. No, volevo rispondere a alcuni ascoltatori che dicono... fanno notare la velocità con cui, sì, lo so, con cui il Senato ieri ha approvato in 2 ore e 20 il nuovo record olimpico nel Senato il DL Boccadutri, e quindi quello che perché ha sbloccato i finanziamenti ai partiti dal 2013-2014 per una montata di 45 milioni di euro, hanno votato contro solo i 5 Stelle. Ma al di là dell'emendamento, così fa specie impressione la velocità e la rapidità con cui lo si è approvato. Professor Manzocchi, grazie. A questo punto, diciamo, noi abbiamo fatto un'analisi incompleta perché ci manca tutto il fronte europeo, che come dicevo rappresenta l'ultimo miglio, ma senza ultimo miglio, diciamo, non porti a casa la legge finanziaria. Grazie quindi al professor Stefano Manzocchi, direttore del Dipartimento Economia e Finanze della LUISS di Roma. Traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Focus Economia. Torneremo su altri aspetti di questa legge di stabilità, confermata il canone in bolletta e poi anche un passaggio del Presidente del Consiglio che dice no, noi una spending l'abbiamo fatta, non sono tagli lineari ma specifici e puntuali per 5 miliardi. Vabbè, non abbiamo capito quali, però c'è una nebulosa, cioè, se questi tagli ci sono fateci una bella lista di dove arrivano così capiamo anche noi, perché sennò 5 miliardi postati di revisione della spesa senza spiegare dove, come, cosa hai fatto, tagli. Ci fidiamo, però anche avere qualche elemento più fattuale non sarebbe male, al di là delle dichiarazioni, diciamo, roboanti. Però vorrei parlare con chi invece con un atto di fiducia sbarcherà in borsa fra 2 settimane, se ho ben capito. E la società si chiama H Farm, la H sta per Human. ed è un, la cosa interessante è che è una piattaforma digitale nata nel 2005 che serve alle start-up a far decollare nuove imprese. Ha investito 17 milioni di euro in 10 anni, 140 aziende finanziate, vi lavorano 550 persone a Catron, a Roncade, in provincia di Treviso. Siamo in collegamento con Riccardo Donadon, che è il fondatore di Edge Farm. Buonasera. Buonasera. Lei con Maurizio Rossi detiene il 30% del capitale, poi c'è Renzo Rosso della Diesel che ha il 20%, la Cattolica Assicurazioni 4,5%, poi altri nomi celebri dell'imprenditoria del Nord-Est come Zoppas e Marzotto sono entrati. Che cosa fa Edge Farm e perché avete deciso di quotarvi? Ma allora, Edge Farm è una piattaforma, come ha detto giustamente, che si impegna ogni giorno a cercare i migliori talenti, selezionarli e cercare di aiutarli a sviluppare la loro impresa. Quindi è una piattaforma di accelerazione, come si chiamano oggi, che unisce un'attività di mentorship dove aiutiamo i ragazzi a un'attività di investimento dove li aiutiamo anche finanziariamente a partire con le loro iniziative. Ecco, Donadon, lei è stato citato anche dal premier Matteo Renzi come l'esempio, diciamo, dell'Italia che va, che funziona. Ma se io fossi un imprenditore con un'idea, con una startup, vengo da voi e voi che cosa mi fornite soprattutto? Ma allora, primo, è una struttura molto particolare perché è un campus che ormai si estende su una superficie di 15 ettari, per cui la scena che poi è arrivato ieri sera, proprio il momento in cui è partito il nuovo camp, che si ripete, è quella di vedere arrivare questi ragazzi che arrivano col trolley, mettono tutto nelle foresterie dove li ospitiamo. Questi sono i 5 che vengono selezionati di solito su gruppi anche di 600-700 proposte che ci arrivano. E poi stanno qui con noi per 4 mesi, quindi hanno il vitto alloggio, quindi dormono, mangiano e lavorano qui per questi 4 mesi, e in quei 4 mesi devono dimostrarci che la loro idea è molto buona e che vale la pena rinnovare l'investimento e aiutarli a farla crescere. Durante quei 4 mesi, ecco, io quindi ho un progetto, mi scusi Donadon, io ho un progetto che voi avete selezionato tra altri, arrivo lì, sto in questo campus per questi 4 mesi, cioè vivo dentro, sono interno, e voi, ho capito che io devo dimostrare che questo progetto si può sviluppare, ma voi cosa mi date? Cioè, la struttura cosa offre? Noi, allora, lo aiutiamo su tutte le cose più banali, quindi a far nascere la società, cioè tutte quelle cose che comunque all'inizio, quando un imprenditore parte, fanno perdere un po' di tempo. Quelle le semplifichiamo tutte e anzi gli diamo anche dei suggerimenti per interpretarsi al meglio con la nuova, con le nuove normative, con tutto quello che è in vigore dal 2012 con il decreto sviluppo. Però a parte quelle cose lì che sono semplici, noi tendiamo a esporlo immediatamente al mercato, per cui siccome Edge Farm ogni giorno vede un sacco di persone, un sacco di imprenditori, un sacco di amministratori legati importanti, un sacco di persone che sono nel mercato, noi gli facciamo conoscere anche immediatamente da trade union, fate. Esatto, e lì è importante perché lui aggiusta il suo tiro, aggiusta il suo focus sull'iniziativa e si posiziona al meglio, comincia a incontrare i primi clienti, comincia a incontrare le persone che lo potrebbero abilitare a una scalata, diciamo, del modello di business che lui ha pensato e che noi abbiamo apprezzato. E quindi, diciamo, fate non solo da supporto intanto logistico, ma anche di contenuti, di consulenza, ma anche da trade union, mettete in collegamento, grazie appunto alla visibilità che avete, al numero di imprenditori che passano, chi ha questa idea, questa startup da sviluppare e l'imprenditore che potrebbe essere interessato a finanziarla. Ma voi finanziate anche direttamente? Noi finanziamo, cioè noi arriviamo a investire in prima battuta una cifra che tra servizi e finanza si gira attorno agli 80-90 mila euro, quindi diamo subito un boost importante. Prendiamo una quota marginale, perché prendiamo una quota di assoluta minoranza, però con quella quota lì cominciamo a capire meglio questa storia e poi se la storia funziona saliamo, cresciamo di partecipazione e investiamo di più. E ogni anno appunto valutate 1000 progetti, di cui ne selezionate 20. E Donadon, resti con noi, perché dopo il GR24 vorrei invece capire la scelta di andare in borsa e poi parlerò anche di quanto dibatteranno domani i giovani imprenditori a Capri. Vedo quanto ho? 20 secondi. Allora, abbiamo applaudito ad alcuni elementi di questa manovra, l'ammortamento, lo dico a chi sta scrivendo, sul Jobs Act lo abbiamo difeso, meglio un lavoro a tempo indeterminato che nessun lavoro, con il Jobs Act che nessun lavoro. Ci sono delle cose buone fatte dal governo, però non è che se ogni tanto ci permettiamo di criticare alcuni passaggi diventiamo antigovernativi, se elogiamo alcuni passaggi siamo filo renziani. Diciamo che cerchiamo di esprimere quello che è la libera valutazione anche sulle manovre finanziarie. Ne riparliamo dopo il GR24. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. La taxi è andata e non ripassa più. Il treno delle 20 è giunto qui alle 3. I taccuini del giubileo, l'inchiesta di Mix 24, domani alle 9 su Radio 24. Sequestrano, sono qui al giubileo con i parenti miei. State ascoltando un programma offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, volevo concludere l'intervista con Riccardo Donadon, fondatore di H-Farm, che si quota in borsa fra 2 settimane. Abbiamo capito cosa fate voi per le start-up, mi dica invece perché vi quotate in borsa? Ci quotiamo in borsa per far crescere questo progetto, che non farà soltanto quello. Questa cosa di investire sulle start-up la rinnoviamo, la rilanciamo, investiremo ancora molto di più, però apriamo anche altri due filoni, uno che sarà completamente sull'education, dove faremo un investimento molto importante per far crescere la formazione addirittura dai bambini dei 6 anni fino ai 25 anni, perché c'è bisogno tantissimo in questo momento di creare consapevolezza sui giovani e sui ragazzi che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro, su quello che è il digitale, su quello che si può fare sul digitale, e lì faremo un investimento molto importante, e poi sui servizi che servono per aiutare le aziende, per aiutare le aziende a cambiare, a trasformarsi. La borsa serve perché noi sentiamo moltissimo la responsabilità di far capire al paese, che è ahimè piuttosto vecchio, che c'è un cambiamento veramente molto importante in atto e anche molto veloce. E questo strumento che è il mercato ti consente di dare un valore a queste cose, ti consente di farlo leggere in modo abbastanza netto da tutti quanti e fa un'operazione di trasparenza molto forte. Questa cosa qui per me è molto importante, in più genera su tutti, pensiamo, molta più consapevolezza su quelle che sono le opportunità e le cose che si possono oggi portare a valore anche verso i giovani, questo grande cambiamento che sta pervadendo un po' tutti i comportamenti sociali con l'introduzione della tecnologia a tutti i livelli. Sì, potremmo fare un'intera puntata sulla variabile tempo, che in questo momento non è più una variabile esterna ma una variabile fondamentale, cioè il tempo con cui tu compi l'adattamento alle nuove sfide è una variabile fondamentale, perché se sbagli tempo, ci metti troppo tempo, sei comunque fuori da questi processi, e l'accelerazione che vediamo fuori è un'accelerazione fortissima. Comunque non posso adesso restare sul tema, grazie intanto a Riccardo Donadon e in bocca al lupo, come sempre facciamo alle debuttanti in borsa, per H-Farm e per tutti i progetti che selezionerete, oltre a quelli già selezionati, visto che sono start-up e spessissimo si tratta di giovani. Domani, avendo la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi della pubblica amministrazione, avremo anche, come sempre, l'imprenditore che ha lanciato un'iniziativa in questi anni di crisi. Grazie Riccardo Donadon, l'andiamo sulla borsa. Allora, la borsa oggi positiva a Milano dell'1,70%, a Parigi dell'1,5%, come a Francoforte, e Londra più 1,1%. L'America sta guadagnando lo 0,26%. Ci sono alcune notizie specifiche: il recupero di ST Microelectronics più 4,80%, Exor più 4,17%, e poi invece di nuovo il calo del lusso. Questa non è una novità, continua a calare il lusso da quando è uscito quel dato molto brutto sulle importazioni cinesi. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, ST Microelectronics più 4,80% ed Exor più 4,17%. Agganciamoci anche Telecom Italia più 3,80%, che sono i tre titoli più di maggior rialzo oggi nelle FTSE MIB? Sì, per quanto riguarda ST più 4,8 perché si scommette su un consolidamento del settore al quale potrebbe far parte anche ST Microelectronics, anche se non in prima battuta. Infatti una società americana ha dato mandato a Goldman Sachs per essere acquisita e questo ha dato in là una serie di speculazioni. Per quanto riguarda Telecom Italia sale l'attesa per il consiglio di amministrazione che si terrà proprio domani e che dovrebbe riaprire i giochi per l'acquisizione da parte della stessa Telecom di MetroWeb, azienda attiva appunto come sappiamo nella rete di nuova generazione. E poi ancora come hai detto tu ci sono altri titoli che sono saliti, si sono messi in evidenza, FCA più 2,8 ma soprattutto Exor più 4,17%, mentre la Ferrari oltreoceano scalda i motori per quotarsi a Wall Street. Eh sì, e questo è l'effetto diciamo Ferrari sia su Exor che su Fiat. Dicevo il lusso oggi debole, nel caso specifico abbiamo Ferragamo che perde il 3,60%, Moncler il 2,11%, Tod's lo 0,44%, Yux Net a Porter lo 0,20%, meglio fa Luxottica, decisamente meglio, più 1,70%, forse viene vista meno dipendente dalle vendite in Asia. E poi c'è il caso di Fincantieri, così andiamo sui migliori e peggiori in assoluto, alla fine ha perso il 13,5%, sospesa anche, riammessa, è arrivata a cedere fino al 15% del suo valore in borsa. Sì, Fincantieri ha un po' catalizzato l'attenzione, quest'oggi sospesa sin dalle prime battute, del resto il Corriere della Sera quest'oggi annunciava che probabilmente al quartier generale dell'azienda si sta studiando un aumento di capitale da 500 milioni che risulta essere una maxi operazione per un'azienda che capitalizza 1 miliardo di euro. La società ha dato una smentita ma che è stata considerata tiepida dal mercato, ha detto che al momento non sono state prese decisioni in merito e soprattutto non è stato nominato un advisor. Come se non bastasse, sempre oggi per quanto riguarda Fincantieri, la controllata brasiliana Vard Fincantieri possiede il 55,6% del capitale, ha fatto un profit warning, ha detto cioè che i dati del 2015 e del terzo trimestre saranno probabilmente peggiori delle attese a causa della crisi che investe tutto il Brasile. Migliori e peggiori in assoluto, visto che ne parlavamo, al di là di Fincantieri e quindi che la vicenda brasiliana, oggi ripeto è arrivata anche l'abbassamento del voto da parte di Fitch al debito brasiliano a livello subito prima del junk, quindi l'ultimo livello possibile dell'investment grade. Dicevo altri titoli: Isagro meno 5,30, Kering meno 4,80, Clabo meno 4,13, sul fronte opposto D-Mail più 12,24%, Kaleido Group più 9,40, Saras più 8,70, BB Biotech più 5,60%. Grazie, l'onore Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore, traffico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Focus Economia. Taglio Ires dal 2017 al 24%. Come sapete, se ve l'ho detto prima, nel caso in cui fosse riconosciuto ciò che vi abbiamo discusso, potrebbe essere anticipato al 16, se no è dal 17. Comuni liberi di spendere i soldi in cassa per strade, scuole, marciapiedi, giardini, aggiungo per frane, cioè gli investimenti dei comuni, ciò che è bloccato per il patto di stabilità sui singoli comuni nell'avanzo d'amministrazione viene sbloccato, altre quante questo era stato annunciato, vale circa 670 milioni di euro, così vi do un po' di cifre che almeno... Risposte per il Sud, non proclami, 450 milioni, i primi 150 saranno disponibili già dal 2015, un protocollo che sarà firmato a 3, Regione Campania, Presidente Enzo De Luca, Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone e Palazzo Chigi. Questo è un altro passaggio della presentazione oggi della conferenza stampa del Premier Matteo Renzi dopo per illustrare la legge di stabilità, ripeto. Noi critichiamo o plaudiamo in base al nostro giudizio. Abbiamo detto che il Jobs Act era meglio di quello che c'era prima. Abbiamo plaudito al fatto che, per esempio, vi sia un aumento degli ammortamenti, una capacità per gli imprenditori di avere un ammortamento che va al 140% rispetto al costo di 100% dell'investimento. abbiamo criticato l'innalzamento della soglia da 1.000 a 3.000 euro, e non voglio tornare sul tema del messaggio che si dà all'evasione fiscale, abbiamo criticato anche il fatto che è scomparso, o di fatto quasi scomparso, anche se il Premier dice no, c'è la spending review, sono 5 miliardi su 10 promessi, non c'è nessuna riforma della pubblica amministrazione in atto, era difficile farlo, ma non si è neanche iniziato a tentare un accorpamento delle 8.000 municipalizzate o dei 32.500 centri di spesa. Questo perché, come nella vita, non è che tutto è nero o tutto è bianco. Questa legge finanziaria ha delle cose, a nostro avviso, positive, ha delle cose, per esempio anche il ricorso al deficit, cioè per creare un elemento espansivo, e ha delle cose invece che non ci convincono per nulla. Si può dire, senza essere o filorenziani o contro, o comunista, come scrive qualcuno, figurati. Poi non ho capito, se uno è comunista, se è contro Renzi, quindi Renzi non è più il segretario del PD, che è questa storia? Ora, avete sentito anche gli stanziamenti per il Sud, perché li abbiamo fatti ascoltare? Perché da domani si parlerà anche di Sud, non solo, nella 30ª edizione del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria Capri. Il titolo è Patrimonio Italia, cambiamo il punto di vista, ma il centro su questo è anche l'obiettivo di rimettere insieme il Nord e il Sud e dare, diciamo, un senso di nazione. Se ho ben capito, ma chiedo conferma al presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Marco Gai, buonasera. Buonasera. È così, perché qualche ascoltatore dice, ma è 70 anni che sento parlare del Sud che deve ripartire, Gai. Sì, è 70 anni che sentiamo parlare del Sud che deve ripartire, del Sud che deve cambiare, ma è 70 anni anche che si vede il Sud come cosa diversa, come altro, e quindi la Cassa del Mezzogiorno, si fanno leggi speciali, finanziamenti speciali, si creano cattedrali del deserto, mi viene in mente Manfredonia, una su tutte. Oggi noi quello che vogliamo dire, c'è un patrimonio eccezionale che è un patrimonio italiano di cui molto è contenuto al Sud, ripartiamo con una visione di lungo periodo di politica industriale che parta dal Sud e coinvolga tutta l'Italia. È inutile parlare di integrazione europea quando siamo ancora qua a discutere tra Nord e Sud. Ecco, e voi fate notare nel documento, diciamo, di presentazione del tema, che insomma, questo è un paese veramente, c'è chi dice, troppo lungo. Cioè, abbiamo una regione come la Lombardia che cresce più della Germania e una regione come la Calabria che cresce meno della Grecia, e quindi un paese unito è un paese, diciamo, che riduce questi divari oltre che i divari sociali. Una domanda, Gai, voi avrete vari esponenti anche del governo, visto il ministro Padoan, oltre che il presidente di Confindustria che chiuderà i lavori, e altri ministri del governo Renzi. Sì, sì, noi abbiamo dal venerdì il ministro Alfano, poi abbiamo il ministro Martina, e poi abbiamo il ministro Giannini e il ministro Padoan che chiuderà i lavori. Quindi vogliamo partire con un discorso che, come si vede anche dalla presenza degli esponenti del governo a lungo raggio, che si guardi prima da partire dall'interno, quindi la legalità, quindi l'immigrazione, il capitale umano che non deve essere capitale sprecato, l'Expo che è un patrimonio incredibile che noi oggi abbiamo tra le mani e che corriamo il rischio che fra 20 giorni diventi un deserto, e questo noi non lo vogliamo, perché è un'opportunità di sviluppo per l'intero paese, non solo per l'area che la coinvolge, e chiudere col ministro Padoan, dove parlerà di sicuramente la stabilità. Ma quello che mi chiedeva lei prima è proprio il concetto di base. Io non voglio che la Lombardia cresca meno della Baviera per essere più simile a un'altra regione del Sud, ma è la regione del Sud che deve crescere e deve andare avanti. Siccome le risorse ci sono, gli imprenditori ci sono, adesso è una decisione politica con l'impegno massimo dell'indirizzo che fa impresa di far sì che questo sia realizzabile. Il punto di vista è da cambiare. Oggi bisogna cambiare, abbiamo un contesto economico che ci favorisce questo. Allora, veniamo, visto che parlava di decisioni politiche, alla legge di stabilità, perché in un passaggio che abbiamo fatto ascoltare nella prima ora del programma, il Presidente del Consiglio, devo dire in maniera molto chiara e netta, ha detto la scelta sull'IMU e la TASI è stata una scelta politica, nel senso che noi riteniamo che per dare fiducia, adesso sintetizzo malamente, per dare fiducia al Paese servono anche dei segnali simbolici oltre che di carattere economico. Lì l'88% degli italiani sono proprietari di casa e noi diamo un segnale di fiducia. E era chiaro anche noi che quella fosse una scelta politica. L'Europa continua a dire, l'ha detto anche oggi il vicepresidente Dombrovskis, a dire no, l'Italia, le nostre indicazioni sono che l'Italia, che i paesi dell'area euro devono ridurre tasse sul lavoro e tasse sulle imprese. Mi dà un giudizio su questa legge finanziaria, fermo restando che i giudizi devono essere articolati, non è bella, brutta, lo dico agli ascoltatori in questo caso, pro o contro, ci sono delle cose che possono andare bene e delle cose che possono andare male. Presidente Gai. Sono d'accordo. d'accordo, i giudizi devono essere articolati e mi piacerebbe leggere la legge di stabilità prima di darli ancora meglio, ancora articolati. Ma devo dire che ci sono dentro cose come l'ammortamento, il superammortamento, l'ammortamento 140%, che trovo assolutamente giusto nella direzione di favorire l'impresa e gli investimenti. Sull'IMU, secondo me l'IMU deve essere equa, ma non credo che equa sia IMU, togliere l'IMU su ville e castelli. Bella. Quelle risorse io le sinceramente le preferirei, sì, sul lavoro e impresa. Ecco, ma interrompo per dire che non è che qui non è un problema di gettito. L'IMU sulle ville e i castelli vale più o meno 97 milioni di euro. Il problema, per seguire il Premier nel suo ragionamento, è che se queste azioni devono avere anche un livello simbolico e quant'altro, è il motivo per cui abbiamo criticato l'innalzamento della soglia da 1.000 a 3.000 euro ed è il motivo per cui diventa incomprensibile perché levi l'IMU anche a chi paga 1.000, 2.000 euro di IMU per beni che valgono 3, 4, 5, 10 milioni di euro. Se ragioniamo sul simbolico, si poteva tranquillamente dire no, leviamo l'IMU. E poi la mancata riforma del catasto, la mancata riforma della pubblica amministrazione. Mi dica una cosa però, Guy, lei che ha la fotografia dei piccoli imprenditori, prima abbiamo avuto ospite il fondatore di H-Farm che aiuta proprio le start-up, e lei che ha la fotografia dei giovani imprenditori, un po' di ripresa, al di là di quello che noi raccontiamo, voi la vedete in questo momento o è tutta una ripresa eterodiretta, cioè tassi di interesse bassi, euro basso, petrolio basso? No, onestamente un po' di ripresa oggi la vediamo, è molto a macchia di leopardo. A macchia di leopardo vuol dire che all'interno delle stesse regioni abbiamo province che funzionano e province che ancora non funzionano, ma il tema centrale secondo me adesso è la ripresa, la ripartenza e sicuramente verso le esportazioni, 419 miliardi se il trend viene confermato, il dato migliore di sempre. Di ripresa parliamo quando riparte il mercato interno, quindi i dati sono migliori. Guardi, la pancia è questa: quando migliorano gli ordinativi e quando si può pianificare la produzione a 60-90 giorni, come molti delle imprese che io conosco e anche le mie riusciamo a fare in questo momento, vuol dire che qualcosa sta migliorando. È qui che bisogna insistere, mettersi nel solco e coglierla tutta per cercare di spingere e di farla diventare ripresa vera. Ecco, mi dica, secondo dal suo punto di vista, quindi dei giovani imprenditori, che cosa dovrebbe fare o continuare a fare il governo adesso? Cioè, portata a casa, vedremo che margini ci darà l'Europa, lo dico a chi scrive, ancora non si è capito se otterremo lo 0,2 che è fondamentale, abbiamo fatto prima tutta la lista della spesa, lo 0,2% di scostamento dal deficit per formalmente per le spese per aver affrontato la crisi sui migranti, ma quei soldi poi servono al governo per far reggere l'impianto da 27 miliardi della legge finanziaria, anche perché appunto sono questi 4 miliardi che valgono 0,2 punti percento di PIL, servono al taglio dell'IRES spalmato su due anni dal 27,5% al 24%. Che cosa chiedete al governo o dove vorreste che continuasse? Ma allora, la prima cosa che vogliamo che posso dire, un concetto su cui mi piacerebbe continuasse è la velocità con cui sta dimostrando di saper fare le cose, perché il cambiamento, soprattutto appunto in un momento che può essere espansivo, i dati ci dicono questo, e la percezione anche, bisogna essere veloci, perché il tempo è centrale e il fare presto diventa centrale non solo nell'azione di un governo, ma per me imprenditore diventa centrale delle nostre azioni, anche perché i tanti giovani che oggi vogliono fare impresa da questo clima di fiducia vengono contagiati e quindi si mettono in gioco e si mettono in campo per fare impresa. Che cosa vorremmo di più? Vorremmo sinceramente che tutto venisse, il più possibile venisse indirizzato non solo sul master plan per il sud, ma sul master plan che deve essere sud per poi master plan Italia, quindi un vero piano industriale che abbia un'ottica almeno quinquennale. Oggi si potrebbe fare veramente un'operazione che parta oggi, finisca fra 5 anni, ma che ci rendi centrale in Europa e ponte verso il Mediterraneo. Allora, in bocca al lupo per i lavori, noi li seguiremo con i nostri inviati Anna Marino e Vincenzo Miglietta domani e anche sabato. Grazie al Presidente dei Giovani Imprenditori Marco Gai. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.